Capitolo settimo, il rispetto della purezza fisica. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: in verità l'Onnipotente Allah è geloso, e in verità anche i credenti sono gelosi. La gelosia di Allah è che il credente non commetta ciò che Allah ha dichiarato illecito. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: a causa della sua gelosia, Allah ha proibito tutte le impurità, siano esse apparenti, siano esse interiori. Non c'è nessuno a cui una richiesta di perdono sia più gradita che ad Allah. Per questo motivo, egli ha mandato ammonitori e annunciatori di buone notizie. Non c'è nessuno a cui sia dovuta la lode più che Allah, e per questo motivo Allah ha promesso il paradiso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: quanto alle donne, siate timorati di Allah, perché è per grazia di Allah che le prendete per compagne della vostra vita, rendendo lecita la vostra unione con la parola di Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: o giovani, chi di voi è in grado di sposarsi si sposi. La vita coniugale, infatti, mette al sicuro gli sguardi ed è più salutare per il sesso, e chi non ha la possibilità di sposarsi digiuni. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: per due che si vogliono bene non c'è soluzione migliore del matrimonio. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: le cose che differenziano l'unione lecita da quella illecita sono il canto nuziale e il suono del tamburo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: il matrimonio è la metà della religione, ed è maledetto colui che pratica con sua moglie il coito anale. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: quando un uomo e una donna si appartano, Satana è sempre il terzo della compagnia. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: la donna è tutta come una parte intima. Quando si scopre, Satana si alza per guardarla. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: non permettere al tuo sguardo di seguire il primo sguardo, perché il primo è per te, mentre non è per te il secondo, o il secondo è per Satana. Disse, non c'è musulmano il quale, dopo aver dato la prima occhiata alle attrattive di una donna, ritiri il suo sguardo, senza ricevere da Allah l'opportunità di una ibada nella quale egli trovi gratificazione maggiore. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: maledetto è colui che commette l'azione del popolo di Lot.